La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. L'articolo 74 chiarisce il potere del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione. Tradizionalmente, il potere legislativo non spettava solo al Parlamento, ma anche al sovrano. Questo era limpidamente identificato nell'articolo 3 dello Statuto Albertino, secondo cui il potere legislativo spettava congiuntamente al Parlamento e al Re. Quindi, dopo l'approvazione parlamentare, il Re poteva liberamente modificare a sua volta la legge o addirittura decidere di non pubblicarla mai. Si parlava di un potere di sanzione regia, quindi era un controllo molto penetrante. Invece, in epoca repubblicana, si chiarisce che il potere legislativo spetti solo al Parlamento. Articolo 70, che già conosciamo. Il Presidente della Repubblica è un organo di bilanciamento e di controllo. Questo potere di bilanciamento e di controllo si esprime anche sul massimo atto di sovranità parlamentare, cioè sulla legge. La legge, una volta approvata dalle Camere, prima di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi prima di entrare in vigore, deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica. La promulgazione è un potere di controllo, cioè il Presidente della Repubblica deve attestare e certificare che quell'atto sia stato realmente approvato dal Parlamento e realmente approvato in testo identico, quindi rispettando pienamente le forme costituzionali. Ma il Presidente non è obbligato a promulgare, perché l'articolo 74 precisa che prima di promulgare può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Quindi l'articolo 74 sancisce un potere di rinvio. Il Presidente, in caso di dubbi sulla legittimità o opportunità della legge, la rinvia alle Camere. È interessante capire questo potere come si sia atteggiato negli anni. Perché il Presidente della Repubblica non ha mai esercitato in chiave politica questo potere, ma lo ha esercitato soprattutto in chiave di opportunità. Nella storia repubblicana sono state rinviate una ventina di leggi, quindi non moltissime, e spesso leggi su temi di minore importanza, ma che tuttavia, agli occhi del Presidente, sembravano non congrue, non razionali con l'intero sistema costituzionale. Alcuni partiti, invece, hanno invocato il potere di rinvio alle Camere quasi come se fosse un potere politico. Infatti, a fronte di leggi molto contrastate, di leggi che in Parlamento hanno avuto una emanazione molto faticosa, i partiti di opposizione hanno invocato la non promulgazione. Possiamo ricordare le leggi elettorali approvate negli ultimi anni, possiamo ricordare qualche anno fa il cosiddetto lodo Alfano, cioè leggi approvate con difficoltà in Parlamento e la minoranza parlamentare chiedeva al Presidente di non promulgare, quindi rinviare alle Camere. I presidenti non hanno mai acceduto a questa visione politica del rinvio e quindi il rinvio alle Camere di una legge già approvata costituisce solo un intervento tecnico che il Presidente usa con grande prudenza. L'ultimo comma precisa, se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Quindi ci fa capire che il potere di rinvio può essere esercitato una sola volta. Per cui il potere di rinvio rappresenta per il Presidente una specie di richiesta di rimeditazione. Praticamente chiede alle Camere, pensateci bene, valutate bene questo punto e poi pensate se mantenere la legge oppure modificarla. Questo cosa significa? Significa che se le Camere insistono nella volontà di approvare una legge, il Presidente è obbligato alla promulgazione. Solo in chiave teorica ci si pone un problema. Se la legge approvata dal Parlamento è palesemente confliggente con la Costituzione, Il Presidente, alla prima approvazione, userà il potere di rinvio. Ma quando le Camere avranno nuovamente approvato quel testo, il Presidente è veramente obbligato alla promulgazione, come sembra dall'articolo 74? Siamo di fronte a quelli che si chiamano casi di scuola, quindi solo a casi teorici, a casi ipotetici. Però, ipotizzando una legge chiaramente, palesemente incostituzionale, ad esempio una legge che stabilisca che le isole italiane vengano cedute ad un altro Stato, quindi in piena violazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica, in quel caso si potrebbe ipotizzare che a fronte della nuova approvazione parlamentare il Presidente possa rifiutare la promulgazione perché la legge è clamorosamente contrastante con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.